Il cartellone rispecchia un po' l'andamento delle giovani band italiane, ma anche non meno giovani, e diciamo alcuni ospiti internazionali che cerchiamo sempre di avere all'interno del festival. Sono sicuramente le band che hanno fatto uscire i dischi migliori durante l'inverno, che noi riproponiamo appunto qua in estate. Qualche appuntamento speciale? Sicuramente l'inaugurazione, che è affidata a Riccardo Senigallia, il cantautore romano, che viene a presentare Ciao Cuore, che è un disco appunto che ha fatto lungamente parlare di sé. Il giorno dopo, il 2 sabato, abbiamo Nada, che da poco è stata anche sul palco di Sanremo. Abbiamo i Fast Animals and Slow Kids, che hanno fatto uscire la scorsa settimana il nuovo disco, che sicuramente farà ampia strada all'interno del pubblico italiano. Poi abbiamo i Blue Beaters il 7, in occasione dell'inaugurazione del Festival del Cinema, che ospiteranno lo Stato Sociale e gli Ex Otago. Abbiamo poi l'11 di giugno i Giardini di Miro, la band di Cavriago, che da più di 20 anni è sulla scena nazionale ed internazionale, che ha appena fatto uscire Different Times, che deve avere un disco ottimo. Abbiamo poi appunto il 13 il primo appuntamento internazionale con i Disney Puritans, una band inglese che viene a presentarci Inside the Rose, e che diciamo attraversa un filo conduttore un po' linciano, perché è un disco molto romantico e decadente. Abbiamo poi una band di pesi massimi della musica italiana, che sono gli I Hate My Village, che sono capitanati da Rondanini alla batteria, per intenderci il batterista degli After Hours e dei Calibro 35, e Viterbini dei Bud Spencer Blues Explosion alla chitarra. Abbiamo Alberto Ferrari dei Verdena alla voce e alla chitarra, e Marco Fasolo dei Jennifer Gentle. Per cui davvero tanti appuntamenti imperdibili all'interno del cartello.